100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Nel paese degli annunci non c'è niente di più annunciato delle privatizzazioni. Peccato che poi non si facciano. È proprio per questo motivo che il debutto in borsa di Rai Way, la società che gestisce la rete di torri dell'emittente pubblica, è un segnale incoraggiante non solo per i contribuenti, ma anche per il nostro governo, che si appresta a vendere sul mercato al parte o intere fette del suo patrimonio e dei suoi gioielli. Peccato però che anche questa operazione di Rai Way, che è stato un vero successo per il management e per chi ha condotto l'operazione sul mercato, pensate soltanto che 240 milioni entreranno nella cassa della Rai e circa 800 milioni la capitalizzazione raggiunta in borsa della società, sia stata macchiata da una decisione del Consiglio di amministrazione della Rai che ha ben poco di concepibile. I rappresentanti nel Consiglio hanno infatti votato contro i loro azionisti, cioè il Tesoro e lo Stato, per la decisione di prelevare 150 milioni dal canone che versano gli abbonati. La quotazione di Rai Way serviva anche a questo, a compensare quei soldi, eppure abbiamo assistito a un board che denuncia lo Stato, fa causa, fa ricorso, per impedire questa scelta. Forse le vogliono chiedere ai contribuenti invece di prendere dal mercato? La nostra speranza è che si continui invece a cercare di avere una gestione sana, rivolgendosi agli investitori per finanziare i nostri gioielli di famiglia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I soldi non sono tutto, o almeno questo è quello che sembra dirci l'economia europea. I nuovi dati sulla fiducia nell'Eurozona puntano infatti ad una crescita asfittica non soltanto per l'Italia, che sappiamo essere in crisi, ma anche per i paesi più forti come la Francia, la Germania e i paesi dell'Europa centrale. Che cosa sta succedendo sostanzialmente? Che dopo 2.000 miliardi di liquidità dati dalla Banca Centrale Europea al sistema bancario, ancora i soldi non arrivano all'economia. Questo che cosa significa? Significa probabilmente che dovremo, noi come paese, ma in generale tutta la fascia più debole dell'Europa, cominciare a cambiare idea su che cosa serva realmente per far ripartire il lavoro, l'occupazione e le nostre economie. Non bastano certamente i soldi, e questo è il significato, perché servono politiche industriali, servono politiche serie per stimolare il lavoro. Dare oggi soltanto liquidità alle banche significa soltanto gonfiare delle bolle speculative in classi di attività finanziarie che poco o nulla hanno a che fare con l'impresa, con il lavoro, con il commercio e in generale con la ripresa dei consumi. I soldi dunque non sono tutto. Che cosa serve? Serve leadership politica e soprattutto idee che permettano di trovare nuovo lavoro e soprattutto fare nuova impresa.